La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon venerdì in questo 3 di ottobre, 16.35 e qualche secondo, 40 secondi, siamo in diretta qui dagli studi Radio 24 di Milano. Io devo pure chiedere scusa perché oggi sono raffreddato, spero di non darvi troppo fastidio, più del solito. Vado subito all'argomento della puntata. Forse qualcuno di voi avrà visto sui giornali o sui telegiornali dei servizi dedicati a una svolta che è avvenuta ieri. È una svolta rispetto all'impostazione standard dei maggiori teatri italiani, teatri di Stato per così dire, cioè quelli finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo Nazionale. Stiamo parlando di un fondo che ammonta per questo poco più di 180 milioni, ha avuto dei tagli in questi anni abbastanza pesanti, e poi sono finanziati ovviamente dai comuni, dalle regioni, hanno anche poi naturalmente il contributo al loro bilancio della raccolta che viene dai biglietti per le rappresentazioni, hanno anche sponsor privati. Però la novità e una svolta da questo punto di vista è che dopo anni e anni di sofferenze di moltissimi grandi teatri italiani, noi abbiamo poco più di una dozzina di grandi fondazioni lirico-sinfoniche, con quindi grandi teatri di tradizione nazionale come San Carlo a Napoli, il Regio a Torino, ovviamente la Scala a Milano, il Reggio di Parma, il Carlo Felice a Genova, e di anno in anno avete visto quanto frequenti siano le difficoltà di questi grandi teatri rispetto ai bilanci, le spese, le perdite, i debiti accumulati, i contrasti che portano spesso direttori artistici e maestri d'orchestra ad andarsene, a sbattere la porta perché non riescono bene a fare i conti, per così dire, con le regole accumulate nel tempo in questo settore. La svolta da che cosa è rappresentata? Dal fatto che a Roma, al Teatro dell'Opera di Roma, quindi il Costanzi, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, dopo tutto quello che è accaduto nel corso dell'ultima estate, molte recite della stagione estiva Caracalla saltate, l'addio poi del maestro Muti che dice io a queste condizioni non ci posso stare, ieri ha assunto il Consiglio di amministrazione della Fondazione una decisione appunto che rappresenta una svolta, che oggi tenteremo di capire chiedendo anche a voi che cosa ne pensate, perché è la prima volta praticamente da sempre che nel Consiglio di amministrazione della Fondazione il sovrintendente Fuortes, con il pieno accordo, ne aveva già parlato con il ministro Franceschini, con il sindaco di Roma, che ovviamente a propria volta il municipio di Roma contribuisce al bilancio del teatro, e sentito anche il presidente della regione Zingaretti, il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta. La proposta è stata ed è quella di rescindere il contratto con gli artisti, quindi più di 200, intorno ai 500 dipendenti del teatro, quindi i componenti dell'orchestra e del coro, e proporre una svolta, cioè l'esternalizzazione del loro lavoro, che si organizzino nella forma che riterranno più opportuna, può essere quella di una cooperativa piuttosto che no, e che poi si ricontrattualizzino loro e non solo loro, sulla base di un impegno che renda coerente la possibilità di avere molte più recite l'anno, quindi di alzare la produttività, una diversificazione dell'offerta, quindi che consenta spettacoli a diverse fasce di prezzo, perché anche di questo c'è bisogno, che incentivi molto di più alla produttività, che consenta anche la rotazione e l'apertura a giovani orchestrali, i grandi maestri che hanno fondato grandi orchestre in Italia come Abbado prima e Muti ricordano sempre che formiamo dei talenti che poi per mancanza di possibilità di entrare nei corpi orchestrali dei grandi teatri italiani o vanno all'estero oppure devono smettere con la musica. Ecco, una svolta però che fa gridare alcuni a che novità positiva, l'Italia capisce che non si può andare avanti con orchestre che hanno indennità, per cui chi suona a Caracalla invece che al Costanzia ha diritto all'indennità in più, oppure bisogna aggiungere un atto in una rappresentazione perché gli atti durano troppo rispetto a quello che c'è scritto nel contratto sindacale. Non voglio mettermi a fare l'elenco delle tante cose singolari che ci sono nelle indennità accumulate per orchestre e cori. Dico semplicemente che alcuni inneggiano alla svolta positiva e pensano che sia finalmente un percorso nuovo che dovrebbe valere per tutti i teatri pubblici italiani e farci riflettere a fondo, perché l'esperienza di altre grandi orchestre nel mondo, non tutte, ma di grandi orchestre nel mondo, è di questo tipo qua, cioè con orchestre che si auto dirigono, cioè che scelgono in forma cooperativa anche i loro maestri a volte, e che sono legati a un impegno professionale esterno rispetto al teatro, anche se fisso, come capita ovviamente ai Berliner, a Berlino e così via, e che poi hanno parti dei propri componenti con un contratto diverso che gli consente di suonare di più in gruppi, musica da camera per esempio, o di incidere individualmente o di svolgere altra attività professionale, per così dire, rispetto ancora a un gruppo ristretto, ma in realtà abbastanza esteso, che identifica poi il carattere dell'orchestra, che ha invece un impegno a un numero di recite, rappresentazioni e tournée molto elevate. Allora, altri invece dicono no, questo è uno scandalo. Questo significa non capire nulla, ma come? Vogliamo precarizzare i componenti di un'orchestra e di un coro? Ma che idea abbiamo mai in mente? Ma che cos'è l'influenza del dibattito sull'articolo 18? Ecco, allora, io sono curioso di sapere voi come la pensate. Io penso che non si potesse più andare avanti, visto che di soldi ce ne sono sempre meno pubblici, a far finta di non vedere quello che succede in moltissimi teatri italiani di fronte all'impossibilità di fare altro se non tagliare le recite, diminuire ulteriormente gli incassi e far scappare gli sponsor privati. Dopo la fuga del maestro Muti, un mucchio di privati avevano detto noi non diamo più i soldi in queste condizioni al Costanzo. Però posso capire che molti si grattino la testa. Allora, per parlarne oggi mi è sembrato giusto parlarne con chi, insieme ad altre sigle sindacali, tante, rappresenta ovviamente i lavoratori del Teatro Costanzi e dell'Opera di Roma. Infatti è con noi questo pomeriggio il segretario generale regionale della Federazione dei Lavoratori, quindi dello spettacolo della CISL a Roma e nel Lazio, Paolo Terrinoni. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio, prego. Allora, piacere. Voi siete una sigla che rispetto al piano industriale e di risanamento finanziario prima dell'estate che fu posta in votazione diceste sì, altre sigle sindacali come la CGIL e la FISA hanno detto no, e a stretta maggioranza comunque 300, più di 300 rispetto a 500 i dipendenti del teatro approvarono quell'impegno, però altre dissero non se ne parla proprio. Lo dico per informare i nostri ascoltatori, ma rispetto a questa decisione di ieri voi che dite? Rispetto a questa decisione di ieri noi riteniamo che questa decisione sia comunque una decisione drammatica, perché abbiamo la preoccupazione che un teatro come il Teatro dell'Opera, che grazie al maestro Muti aveva ormai uno spessore internazionale nel mondo, si destrutturi, si impoverisca, e quindi noi su questa cosa non l'accettiamo proprio, anche perché noi, avendo compreso bene qual era la situazione prima e qual era la situazione che il sovrintendente ci aveva Fortes ci aveva esposto, noi abbiamo firmato un piano di risanamento e stavamo lavorando su un nuovo contratto integrativo dove prevedeva una produzione maggiore, fermo restando che non si sarebbe persa nessuna quota di salario, ma avremmo sicuramente lavorato di più. Noi avevamo compreso bene questo problema e l'abbiamo portato avanti in mezzo ai lavoratori, e i lavoratori ci hanno capito da questo punto di vista, tanto è vero che noi non abbiamo mai partecipato ad uno sciopero di quest'estate a Caracalla, che ha danneggiato fortemente l'immagine del teatro di Roma e della cultura italiana, e nonché ha avuto dei risvolti anche economici. Allora, tanto io devo innanzitutto avvisare i nostri ascoltatori che noi abbiamo, ve lo dico, da mezzogiorno e 50 bloccati gli sms, quindi se mandate gli sms io non posso leggerli, immagino che chi è venuto prima di me ve lo abbia già informato e purtroppo siamo in panne tecnica. È il compleanno di Radio 24, come sapete, e quindi in questi giorni magari qualche problema tecnico è ancora più purtroppo deplorevole che in altri giorni. Quindi se volete intervenire 800 24 00 24 dovete chiamare direttamente, perché non sono in grado di leggere le vostre opinioni oggi. Ma vi do qualche elemento in più. Allora, rispetto al totale degli spettatori realizzati, per esempio, nell'anno 2013 al Costanzi del Teatro dell'Opera di Roma, c'erano, se facciamo una proporzione rispetto ai denari pubblici, cioè ai milioni dati dallo Stato, dal Comune e dalla Regione, e il Teatro dell'Opera di Roma era, rispetto per spettatore pagante, il più contribuito dal punto di vista del pubblico, del contribuente. Rispetto al 2008 aveva 12 recite in meno, quindi c'era un problema di produttività decrescente. E poi c'era il solito problema delle difficoltà riscontrate da molti maestri rispetto a questo accumulo di indennità. Tentiamo di spiegare, Paolo Terrinoni, da dove nasce questa particolarità che nelle orchestre per i cori italiani c'è questa sovrapposizione di indennità le più strane e diverse, perché ovviamente nessuno ha idea che per prestare la propria selezionatissima professionalità, perché è chiaro che stiamo parlando di musicisti, di cantanti che passano l'intera vita, non solo gli anni in conservatorio, a estendere il repertorio ed affinarli poi. Però detto tutto questo, immaginare che ci sia un limite di minuti per le prove, indennità per come ci si veste o se si entra in scena con le armi, eccetera eccetera eccetera, effettivamente sembrano molte cose insensate. È così o no? Beh, intanto stiamo parlando di indennità e di integrativi che rispetto al momento vivevano un momento sicuramente diverso. Comunque stiamo parlando di professionalità molto elevate. Per carità. Stiamo parlando di professionalità che durante l'anno dovevano comunque studiare ed esercitarsi. Anche il fatto di manovrare un'arma, calcoliamo che c'è un maestro d'armi. Non c'è dubbio, all'interno del teatro. Ma non c'è dubbio, però il maestro d'arme lo capisco. Dare di più se qualcuno entra in scena con un'arma finta, ecco questo. Ma non voglio ridurre questo. Il problema è che grandi teatri europei nella media fanno tre volte le recite che c'erano a Roma. E infatti questo l'avevamo compreso bene e stavamo lavorando su questo, tanto è vero che nella stagione, questa corrente 2014-2015, avremmo realizzato il 25% in più di programmazione. Era questo dove noi stavamo puntando insieme ai lavoratori, e gliel'abbiamo spiegato, una produttività maggiore per mantenere questo teatro. Ma allora secondo lei perché hanno preso questa decisione, se c'erano questi impegni? Perché tra l'altro l'effetto di questa decisione è che, nella migliore delle ipotesi, la stagione si dimezza da quella 2014-2015, perché ovviamente adesso devono passare 75-90 giorni per rimettere mano a una nuova cosa. Esattamente. Però secondo lei perché? Adesso le chiedo questo, abbiamo 60 secondi di informazioni sulle strade e poi al ritorno immediatamente le do la parola e mi dice: visto che secondo voi eravate ben instradati a migliorare la produttività e a contrarre i costi, perché l'hanno preso questa decisione? Solo per il gusto di una svolta? Ripeto, secondo me è necessaria, però sentirlo da voi è diverso ovviamente. Strade adesso. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, stiamo parlando di questa decisione svolta, traumatica, radicale nella storia dei teatri pubblici italiani, assunta ieri dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma. Quindi il coro, gli artisti, via, si rescinde il contratto, riorganizzatevi, facciamo un nuovo contratto a tempo, esternalizzato, vediamo se per tutti uguale o per altri no. Dobbiamo triplicare recite, qualcuno mi ha mandato un sms sul telefono dicendo: ma figurati se triplicare recite. Sì, alla Deutsche Oper di Berlino fanno 220 recite l'anno di opere e balletto, la media dell'ultima stagione era 70 a Roma, e tre volte, che volete da me, non è che me le invento le cifre. Detto tutto questo, la domanda rispetto a Paolo Terrinoni, che è il segretario generale regionale Roma e Lazio dei lavoratori dello spettacolo della CISL, è: ma se era instradata con Fuortes il sovrintendente il discorso aumentiamo quantomeno del 25% la prossima stagione le recite e diamoci da fare, quindi per alzare gli incassi e alzare la produttività, perché allora l'hanno presa questa decisione secondo lei? Secondo me questa decisione è stata presa, fermo restando che noi non la condividiamo e la riteniamo comunque drammatica, è per quello che c'era stato. È vero che noi l'avevamo capito bene, però eravamo una maggioranza, non era la totalità del teatro, e siccome alla fine il core business del teatro è l'orchestra, presumibilmente per gli scioperi effettuati nel corso della stagione estiva e non potevano essere più controllati, a mio avviso c'è anche questa. No, ma secondo me lei ha ragione, perché se si vota a maggioranza e poi però la minoranza in orchestra fa saltare le recite, il pubblico bisogna rifonderlo, e soprattutto gli sponsor privati, come mi è confermato a Roma, non daranno più soldi, quindi il problema è che le minoranze non rispettano il voto delle maggioranze. Scusi, in questo momento, in questa fase è successo questo, e bisognerebbe anche andare a chiederlo a loro. Io ho visto che i rappresentanti CGL e CISL e UIL hanno concordato nella stanza dell'assessore Marinelli, abbiamo fatto un accordo sul piano di risanamento di andare al referendum. Il referendum è stato effettuato, il 66% dei lavoratori ha votato a favore. E poi qualcuno non ed ha eccoci rispettato qua. Ulteriormente ed eccoci qua. Io le aggiungo un'altra considerazione adesso, lo so che come capita spesso con queste regole, purtroppo. Allora, uno di questi sindacati è la CGL, di quelli che oggi trovate sui giornali, che dice non passerà mai questa linea, adesso bloccheremo il teatro. Io mi auguro di no. Detto tutto questo, per me c'è anche un'altra questione, cioè per gli orchestrali e i componenti del coro, cioè professionisti, io distingo rispetto agli altri lavoratori delle maestranze tecniche del teatro, per loro secondo me trattarli come lavoratori dipendenti tutta la vita è un po' sbagliato come concetto, ma questa è la mia opinione ovviamente. Sentiamo Carlo da Udine come la pensa. Carlo, prego. Intanto buon pomeriggio, Oscar Giannino, e buon compleanno alla radio soprattutto. Allora, io non voglio entrare nel merito di discussioni sindacali, perché so che la sofferenza comunque dei lavoratori, voglio solo dire, io sono un padre felice di avere due figlie che hanno intrapreso lo studio della musica classica, conservatorio di Udine, poi la grande si è trasferita a Venezia, si diplomerà quest'anno in violoncello. E ha voglia, diciamo, la grande ha fatto una scelta, quella di cercare di intraprendere. E quindi, come padre di due giovani musiciste, lei pensa che sia un bene questo tipo di svolta per aprire anche la rotazione giovani o no? È assolutamente un bene, perché nell'ambiente dei giovani musicisti che io frequento, anche perché sono appassionato e cerco di organizzare concerti per i gruppi che si creano, e devo aprire parentesi, c'è un mondo di associazionismo nascosto, poco aiutato in Italia, che gestisce cori e orchestre giovanili di altissima qualità. Ecco. E questo viene riconosciuto più all'estero che in Italia. E allora lei dice in quel mondo? In quel mondo c'è una serie di incrostazioni allucinanti per l'ingresso di giovani musicisti nelle grandi orchestre, anche in quelle di grandi fondazioni liriche. Io sono nativo di Verona e conosco bene la situazione, perché o si conosce qualche assessore o si conosce. Ma ripeto, rimanevo a Bado e Muti, ma sono tutti grandi maestri italiani che hanno sempre fondato o dato una mano a orchestre giovanili che sono straordinarie, pensate all'Orchestra Corelli e così via nel nostro paese, penso a Sinopoli, il compianto Sinopoli. Per me è grandissimo, hanno sempre sottolineato che c'era un enorme tappo all'ingresso per i giovani talenti nelle grandi orchestre italiane delle fondazioni lirico-sinfoniche. Sentiamo Tommaso da Vicenza, come la pensa? Sì, buongiorno Giannino, buongiorno. Guardi, sono assolutamente concorde con lei nel domandarsi perché obiettivamente Roma debba avere un coro di un'orchestra di dipendenti pubblici. Io credo che non è solo Roma, questo è appunto. Andiamo sempre a parlare insomma, magari col privato le cose funzionerebbero diversamente, proprio per delle offerte diverse, delle modalità diverse di esercizio e tutto quanto. Quindi anche lei dice che è una svolta positiva, Tommaso, in sintesi. 10 secondi solo di nuovo a Paolo Terrinone. Che prevede? Vi metterete d'accordo, Terrinone? Ma guardi, noi adesso intanto siamo in attesa della procedura di licenziamento, che ancora non è arrivata. Certo, adesso l'hanno annunciato. Da un momento all'altro, ne verificheremo la legittimità, e chiederemo immediatamente un incontro alla sovrintendenza. Ma abbiamo il fine è di dare una mano o di contestare con le impugnative, il vostro come CISL? Beh, ci stiamo riflettendo, ma sicuramente. Va bene, finito il tempo, continuate con Radio 24, appuntamento come lunedì.